Se ti dicessi ogni cosa penso che te ne andresti. Non posso correre più questi rischi. Diversi sguardi ma stessi precipizi. Non ti smentisci, a volte mi uccidi. Ma poco dopo riesci pure a guarirmi. Rigiri con le dita i capelli ricci. E non capisco perché non mi capisci. Quanto è costato aprirci. Che non ci servono i cognomi sul citofono. Un letto un po' più comodo per sentirci a casa. A noi bastava anche un B&B vicino all'autogrill. Un secondo da dividerci. Che i nostri occhi sono come cani. Gli manca la parola. E a darsi baci senza amarsi. Sono tutti bravi ma studiano a memoria. E adesso a forza di distrarci noi siamo tornati indietro. Come quando sbagliavamo direzione della metro. Il nostro amore era grandissimo. Per te un dettaglio piccolo. E adesso scusami se sono stato bravo ad illudermi. Confondo le certezze alle abitudini. Io preferirei odiarti invece eccomi. Che non riesco a perderti. Se ci servissero i cognomi sul citofono. Un sentimento logico per chiamarci casa. Allora non saremmo qui vicino all'autogrill. Col silenzio a dividerci. Che i nostri occhi sono come i cani. Gli manca la parola. E a darsi baci senza amarsi. Sono tutti bravi ma studiano a memoria. E adesso a forza di distrarci noi siamo tornati indietro. Come quando sbagliavamo direzione della metro. Il nostro amore era grandissimo. E per te un dettaglio piccolo. Siamo innamorati mille volte ancora.